sbarrar nel faro, per piacer, e ti hanno il pugno, il circo è pieno di difesa, il circo pieno di tu di giù. Spettator, per non la testa, gli spettator parlano tra lor, mi dan del giù, e chiamando, interrogando, fidandogli un final furor, perché la festa è del valore, e la festa è del valore, andiamo. E guardia, guardian, guardian, toreador, attento, toreador, toreador. Non obliar che un occhio tu parlor, a cambiarte in verdo, e che t'aspetta amor, toreador. Toreador, toreador, toreador, toreador.